Dialogo 49. Auf bin Malik raccontò di aver udito il profeta, che Allah lo benedica e la ben gloria, dire queste parole: i vostri migliori governanti saranno quelli che voi amerete e che ameranno voi, quelli per cui voi pregherete e che pregheranno per voi, mentre i vostri governanti peggiori saranno quelli che voi odierete e che vi odieranno, e quelli che voi maledirete e che vi malediranno. Noi gli chiedemmo: o apostolo di Allah, non dovremmo disobbedire? Rispose: no, fino a quando eseguono le devozioni quotidiane obbligatorie. No, fino a quando eseguono le devozioni quotidiane obbligatorie.